Avventurieri, la strada che avete scelto è stata faticosa. Una salita ripida, seguita da una discesa instabile, con rocce scivolose e massi irregolari. Ne uscite con qualche graffio, ma siete vivi. E la buona notizia è che infine la strada continua.